programma è in collaborazione con stymusic.com. Del lupo. Non capisco cosa stai dicendo, vabbè, poi me lo dici. Sì, siamo qua per una nuova puntata di Wolf Trips. Questa sera la puntata 16. Siamo alla sedicesima puntata. Siamo al 16. Ai microfoni, alla regia ci sono io, Domenico Biancardi. Ai microfoni per adesso c'è solo la CRI e vabbè, amen. No, arriveranno. Cercherò di contattarli. Sì, no. È bello perché ci fa: no, ma stasera arriviamo prima, che dobbiamo fare questo, quest'altro. E niente, siamo sempre noi due da soli, vabbè. Siamo tornati un po' come all'inizio di Wolf Trips. Vero. Quando facevo solo il programma io. C'eravamo io e te. Sì, però parlavo solo io. Sì. Te non volevi fare niente, nulla. Va poi bene. Mi sono presa. Meno male, una buona voglia. Meno male. Allora, dovrebbe essere partita la diretta Facebook. Non lo so, ti chiedo lumi e sai aggiornamenti. Adesso. Vabbè, dai un però occhio. Però ricordiamo comunque che dalla puntata di, cioè dalla diretta di Facebook, non possono sentire la musica. Faremo qualche piccolo esperimento, non lo diciamo, però facciamo qualche piccolo esperimento, poi vediamo. Non lo so, vediamo. Va bene. Voglio ricordare intanto, anzi volevo salutare i nostri, diciamo, le nostre collaborazioni principali con Stai Music, che abbiamo anche il jingle, e con Indie for Bunnies, che ancora non abbiamo fatto nessun jingle. Devo proporgli di fare anche un jinglettino a loro, che sì, non è male l'idea. Sono dei bei portali. Uno, il primo, Stai Music, è più una roba, diciamo, di ascolto musicale delle playlist, dove abbiamo una playlist anche noi di Wolf Trips con la nostra musica. E invece Indie for Bunnies è più, diciamo, un sito con recensioni, musica, e anche noi metteremo un po' della nostra musica anche lì. Mettiamo un po' del nostro. Allora, stasera facciamo una playlist un po' particolare. Volevo ricordare anche i contatti. Vai. Ci possono scrivere o su Facebook, rispondiamo anche sotto le dirette. Oppure ci possono scrivere al numero 340 136 17. Eh sì. Ci sono vari modi. Poi anche su Instagram, infatti, volevo salutare Katia, che si occupa dei nostri social. Chissà se ha caricato qualcosa. Comunque lei carica tutti i giorni qualche story abbastanza divertente, sì, simpatica. E speriamo anche di averla a breve tra di noi. No, visto, non si è brutto. Nel senso che è ancora a casa, ecco, mettiamo così. Allora, iniziamo subito con un po' di musica. Lei è Natasha Beller ed è Senseless Song. Senseless Song. Chiedo lumi a te, che sei più pratica in lingua inglese, visto che io sono un po' marcio da questo punto di vista. Without any shame, it's a little Che abbiamo ascoltato era di Natasha Beller dalla Block Sonic, no? Un'etichetta che ormai conosciamo bene. Perché dicevi metti on air? Intanto è arrivato Tony e fa già cadere le cose, per non dire altro, vabbè. Scusa, era una battuta. Però Tony dovrebbe far parte di RFI / Trenitalia. Perché è arrivato in ritardo, ma non è vero, dai, non è vero. Sempre in ritardo. Non diciamo queste fesserie, mettiamola così. E niente, vabbè, intanto che si sistema Tony e arriva anche la Deborah, io direi che se non hai altro da dire, io ascolterai il prossimo brano. Il prossimo brano. Che tra l'altro è già partito in sottofondo senza volerlo, e quindi per quello che ti dicevo, ascoltiamo il prossimo brano e torniamo un po' alla musica dub, reggae che abbiamo ascoltato un bel po' in questi giorni e ultimamente non stiamo più passando. Loro sono i Fortress of Ignorance. Ignorance. Scusami, loro sono i Mastermind XS con il brano Fortress of Ignorance. Ecco, è proprio giustissimo il titolo, andiamo a ascoltarcelo. Feels like the same replay. These pictures of the wall. Questo era un brano della Dubphonic. Tanto qualcuno mi sposta il microfono e quindi devo fare poi i salti mortali per parlare. Tanto è arrivato finalmente Tony, che ancora in realtà sta lavorando col cellulare, non so cosa stia facendo. E la Debora. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Tu invece? Stasera siamo qua io e Debora. Ok, ci siamo divisi le parti stasera. Sì. Magari riusciamo a gestire meglio il programma. Siamo maschi contro femmine, vediamo chi vince. Allora, intanto stasera abbiamo un ospite che non so come pronunciarlo. Infatti adesso gli scrivo, che già ci stiamo sentendo via telefono, dopo lo intervistiamo. E allora, in teoria si dovrebbe chiamare Sikrat. Però non so se si chiama, com'è che dicevi tu? Abbiamo il dubbio che si chiami o Sikrat o... Sikrat. O Sikrat, potrebbe essere entrambi. Vabbè, tanto scusami, dobbiamo intervistarlo, glielo chiediamo a lui dopo, no? Sikrat. No. No. No, secondo potrebbe me no. Potrebbe essere anche un bel gioco di parole. Potrebbe essere un segreto. Gioco di parole, infatti, Secret. Infatti, dopo lo scopriamo. E dopo glielo chiediamo. Tra l'altro, io ho scoperto del nuovo. Ha indovinato Tony. No. Tra l'altro, no, una cosa sola volevo dire di lui, poi dopo in realtà ne parleremo ampiamente con lui, che l'abbiamo scoperto tramite l'etichetta Dusted Walks Kingdom, quindi in realtà poi dopo lui mi ha raccontato che ha prodotto tanta roba con altre etichette, però vabbè, basta, ho già detto troppo. Tanto qua fa un freddo del bestia, direi. Sto congelando. Acceso. Da voi. Mamma mia, quasi muore di freddo. Infatti, se qualcuno vede la webcam, che ancora mi sa che non è partita, mi vede a me col cappotto perché sto morendo di freddo. Anche la webcam è rimasta. È scioccata. Congelata. Immagine frizzata, direi. Sì. Allora, continuiamo. No, dimmi. In realtà è arrivata Barbara D'Urso, ha detto freeze. No, non racconti queste cose qua. Poi dopo sono iniziate adesso queste cose qua dei social. No, dei social, dei, come si chiamano? Dei reality in questo periodo. Sì. È veramente una noia incredibile. Cos'è? No, lui aspettavo che mi sbloccava. Vabbè, visto che hai fatto lo stop freeze, andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è di Emerald Park. Qua non posso sbagliare. E il brano si chiama Go, Go, Go. Bring your lifestyle magazines, bring your lever. E stasera ho scelto un po' di brani anche sull'indie rock, qualcosa, sì. Okay, ci siamo capiti male. Questo brano qua non mi dispiaceva. Sì, bello. Anche se in realtà ancora sulla playlist vuole qualcosa in pensola. Poi vedremo come definirla, dai. Dobbiamo decidere anche il brano. Il brano della settimana, è vero. Che è successo? No, questione tecnica. È tecnica? Cos'è? Che no. Ero qui così, no? Ah, è giusto. Tra l'altro, mi ha detto di togliere. Sono passate le 8:15. Per chi ci ascolta in diretta. Si sentono anche le campane. E si sentono le campane, non capisco perché. Cioè, voglio dire, un conto sono alle 8, un conto alle 8:30, ma le 8:15. Non siamo neanche in periodo festivo. 20, perché sono le campane? Vabbè. Le soluzioni non è. Tanto le sentite sottofondo. Potete sentire le campane di Samarate. Attenzione, io le. Oh, è venuto a mancare qualcuno. In quel caso lì, non è proprio una bellissima cosa. E quindi, per tirarci su un po' di morale, andiamo a ascoltarci il prossimo brano, che è dei BR Style con Japlan, che abbiamo ascoltato molte altre volte, ma me lo riascolto sempre un po' volentieri. Ed è un brano sempre su un po' sul dub, sul reggae, su un. Da fattone? Sì. dai, questo pezzo qua a me è sempre piaciuto. Tra l'altro loro sono una band che ormai si è sciolta, però come sempre li mettiamo, poi hanno creato altri progetti paralleli che non sono per niente male. Bella, la musica è sempre quello che deve rimanere, ecco. Sì, cioè, sì, sì, sì, poi dai progetti fine... si prendono sì, mille strade, cioè, mille cose. Come le amicizie, cioè tutte le cose così. Sì, è vero. Mamma mia, che citazione. Hai fatto una citazione molto colta, molto colta. Tra l'altro questo brano qua l'avevo conosciuto da una recensione di Indie for Bunnies, che da oggi siamo ufficialmente sul... Ciao gli amici di Indie for Bunnies, che l'avevamo già salutati prima. E tra l'altro io ho chiesto di fare un jingle, qualcosa. Adesso vediamo, se no ci, sì, ci arrangeremo noi in qualche modo. Ma... Che è successo? No, no, se si vede in webcam... No, non si vede. E forse è meglio che non si vede, comunque. Perché? Cosa è successo? No, no, successo? Sembra un cocker. Ma no, sta benissimo, Tony, sta benissimo. L'anziana sa che parla. Ecco. È bellissima. No, no, poi faccio una foto, va che la posto, La posta, là, va che va bellissima. Dai, scusami, stasera la postiamo su Instagram e vediamo cosa ne pensano, no? Va bene, dopo vedrai. Che vanità. Cosa ne... Inutili, vabbè, lasciamo stare. Vabbè. Ma noi siamo un programma così, mischiamo le cose interessanti con le cose inutili. Okay. Intanto, se vedono la webcam, possono scriverci al 340 136 17 e ci dite: è bella Deborah stasera? Per me è bellissima. E se si vede? Perché noi la diretta web non succede mai che funzioni. No, infatti. Occhio Tony che te la portano via stasera. Ho chiesto lumi anche dalla regia, diciamo dalla grande regia, vediamo se ci darà una mano. Anche perché tra poco saremo in diretta con la nostra intervista della giornata. E poi dopo vi devo dire, oggi c'è un grosso ci sono un po' di assenze. Siamo rimasti in quattro. Tra cui uno dei due, Fabio, che in realtà è a casa malato, quindi mi sa che dopo magari non penso che ci stia ascoltando, però perché sicuramente lui guardava se c'era la diretta o ascoltava. Sì, immagino cosa guarderà a casa, ecco. Anche se l'orario di falsa protetta. Ecco, direi che dopo magari faccio una telefonata veloce, tanto ormai siamo pratici. Sì. Tony, non è più fascia protetta ormai. Ci sono sempre i siti. Sì, e i siti non hanno fasce protette. No, no, quindi è vero, ogni ora è buona, vai, sì, Fabio. Sì. Infatti, non ti chiedono neanche più l'età, perché. Vero? Come nei siti delle aziende alcoliche, ti chiedono se avevi 18 anni, ma cosa cavolo c'entra? Ormai non chiedono più niente. Pensa, Tony, che a me un giorno non voleva andare le sigarette, perché pensava che io non fossi maggiorenne. Sì, vabbè, ma alla fine non cambia niente. No, si era impuntata questa, cioè, veramente. Beh, comunque sei maggiorenne per dire il prossimo titolo. Aspetta, perché sono maggiorenne ma non ci vedo una mazza. Vabbè, allora, non è, sei maggiorenne ma c'è. When you know it, nobody. I am nobody sarà scritto, però I am nobody, è vero. Sì, ma l'ha studiata prima. Vi ho fregato stavolta, vi ho fregato.

E questo era il brano di Secret, perché finalmente abbiamo scoperto come si pronuncia. Il brano si chiama Magic Images e dovremmo avercelo in linea. Ci senti? No, non ci sente, aspetta. Ci senti adesso? Ciao. No, nulla, è morto, vabbè, niente, dai, lo recuperiamo subito dopo. No, niente, questo brano qua è uno dei primi che aveva selezionato e... Aspetta un attimino che vediamo se riusciamo a rimetterci in contatto. No, giusto così. Oh, ok, eccoti qua. Niente, stasera sto invecchiando anch'io. Faccio i casini e poi c'è il mio collega di fianco invece che meno male. Ciao. Che li risolve. C'hai sentito, no, la presentazione del brano? Almeno quella siamo. Dovremmo aver detto tutto giusto, dai. E ciao, benvenuto intanto. Ciao, grazie a voi per la ospitata. Grazie. Oh, prego, prego, prego. Mi sentivo. Prego, prego, prego. Dicevo, quindi il tuo nome si pronuncia Secret e mi stavi già dicendo anche sì, un po' il perché. Sì, vuole essere un gioco di parole con, diciamo, segreto, quindi Secret letta così come segreto, però è scritta come Secret, come topo malato, che è un po'... concetto di topo che, diciamo, l'ho voluto sempre un po' associare alla musica underground, al, diciamo, al concetto di sommerso, di sì, appunto del sottosuono, come un qualcosa che rimandasse alla mia musica, che tendenzialmente è nata come una musica molto sporca, perché campionata da vinili, quindi ricca di sporcatura, distorsione, quindi questo concetto di underground ricordava molto, diciamo, secondo me, il topo, che essendo anche un animale di campagna, io essendo anche originario di un paese di provincia, ecco, un po' chiudeva un po' il cerchio con questa sorta di associazioni, e poi più che altro per la, diciamo, l'assonanza con Segreto, che era il gioco di parole con Secret, quindi per questo. Ma tu di dove, di che zona sei? Che ce lo domanda, ci domandavamo. Sì, sono di Sarno, che è un comune in provincia di Salerno. Ah, ok, Sarno, sì, famoso. Ok, ok. Sì. Ciao, io sono Tony, quello che ha scoperto il tuo vero nome. Sì, lui ha indovinato, sì, perché abbiamo tirato tutti a indovinare come si pronunciasse, quindi lui ha indovinato. Poi sono quei nomi che trovi da... perché poi veramente sono questo nome da 15 anni, quindi da quando ero ragazzino. E poi te lo porti avanti, quindi anche se non ti piace a quel punto che strano però, come, cioè, da ragazzino ti chiamavano Secret. Che strano. No, è che nel senso era, diciamo, più una uno schizzo mio, questo nome, che poi l'ho tenuto perché poi ho continuato a fare musica e a quel punto un po' ci rimane affezionato, no? Quindi, sì. Giusto. Che poi, diciamo, c'è un aneddoto divertente sul fatto che una volta ho provato a fare ho fatto una collaborazione con un artista americano, lui nel pubblicare il nostro brano non metteva il mio nome nelle produzioni, ha detto: senti, scusa, potresti mettere che magari la produzione è mia, ma giusto per direi. Lui mi disse: no, guarda, non lo faccio perché è un segreto. No, ma lui anziché mi disse: no, dalle mie parti è una brutta cosa, il tuo nome è una brutta cosa. Tagliala. Mi chiedo scusa, ma cosa vuol dire? Che sono anche curioso. E lui mi diceva: il ratto nel gergo americano è colui che poi è un informatore corrotto che si è venduto alla polizia. Quindi ho capito. Io non lo sapevo, però detto, fai conto che io ho altri motivi per cui mi chiamo così. E quindi poi gli ho spiegato un po' le motivazioni, che poi ha accettato e ha deciso poi di far comparire. Direi. Ascolta, il brano che abbiamo ascoltato prima, Magic sì. Image, volevo sapere, visto che più o meno lo stile poi dopo che abbiamo, sul quale io poi dopo ti avevo selezionato per passare anche altri brani, volevo sapere un po' di informazioni, tipo su che etichetta è stato pubblicato, periodo, sì, un po' dimmi tu. Sì, allora, è un brano del 2000, aspetta, vado un po' a sensazione, 2018, dell'anno scorso, che è uscito un album che si chiama Bricks, che è stato pubblicato da Nuages Records, che è un'etichetta americana con cui collaboro da 3 anni più o meno, con cui ho rilasciato 3 album. Ok. E tra l'altro questa featuring c'è Eric Jackson, che sì, è il proprietario dell'etichetta, che... un docente di musica, di fonica lì di Florida, lì americano, e ha creato su veramente un bel gruppo. Sicuramente avrete modo di dargli l'ascolto. Io poi ti ho consigliato qualche link di Next Level. Sì. Loro propongono un jazz in chiave più elettronica, rivisitato in chiave elettronica, però ovviamente con una profonda matrice hip hop come batterie ritmiche, quindi è da ascoltare, interessante. Esatto, io lo trovo un genere molto cool, cioè un po' chill, rilassante per certi versi, forse a volte anche un po' troppo, però insomma, vabbè. Sei, diciamo, ci vuole il mood giusto, dai. Sound jazz. Sì. E poi l'altro è Mr. Moot, che è un altro produttore canadese con cui sono particolarmente legato, perché poi è stato il primo che mi ha introdotto nel 2013-14 alla Dust Black Record, che sì, è un'altra etichetta di cui avete pubblicato diversi sì, lavori, che invece è un'etichetta che sta su un sound un po' più, diciamo, hip hop strumentale, ed è un po' più abstract, diciamo un po' più dusty vinyl come tipo di approccio, campionamento, vinili, sono sporchi, un po' meno elettronico, dai, rispetto a Noir Records. Però appunto è stata la persona, Mr. Moose, che mi ha introdotto in questa etichetta, e quello è stato, diciamo, il mio primo anno in cui ho cominciato a pubblicare musica sul web, e poi ho avuto modo di rilasciare diversi album, per poi arrivare l'anno scorso con questo pezzo che avete sentito in un Magic Records. Ok, il prossimo brano invece è Unearthed. Sì, Unearthed. Lo ascoltiamo, facciamo così, ascoltiamolo e poi dopo ci dai un po' di informazioni in merito. Perfetto, va bene. A dopo. Allora sentite, perché non mi date un colpo di telefono quando volete cominciare a prendere le cose un po' più seriamente? Vi lascio il mio biglietto. torniamo in diretta con... Allora, voi vi siete persi, eravate un attimo in pausa, quindi vi siete persi come si chiama il nostro ospite. Effettivamente si chiama Secret. Secret. Vedi, ha azzeccato Tony, ha azzeccato Tony. Ci hai fatto perdere. Intanto dovremmo avercelo ancora in diretta. Ci sei? Ci senti? Pronto? Sì. Vabbè, ci sta che ti eri un attimo distratto perché comunque... Sono appena... appisolato. No, è che dal cellulare sento un po' male, quindi... Ah, ok, ok. Che però è un po' in delay. È un po' in ritardo, sì, sì, certo. Già stava appena sfumando la canzone, non so quanto tempo era passato. Però No, se ascolti dall'audio in diretta non riesci, cioè scusami, dall'app poi non riesci a rientrare in diretta subito. È un po' un disastro. Quindi questo, dacci qualche informazione su questo brano a Nerd. Sì, allora, questo è un brano è tra i primi che ho... Infatti è stato rilasciato inizialmente con l'etichetta Dust 2X nel 2013, quindi è abbastanza vecchio, però questa è un'edizione rimasterizzata che è finita poi anche in Oasis Records. Cosa intendi per versione rimasterizzata? Cioè, Nel senso che io quando ho lavorato a sto brano era nel 2013, non avevo ancora fatto corso di fonico, diciamo i miei studi, le mie competenze nell'audio, nel mixing e nel mastering erano ancora un po' primordiali, quindi poi nel tempo ho avuto modo di studiare, di affinare un po' la tecnica di produzione in studio come mixing e mastering, quindi questo era un pezzo a cui ero affezionato, mi piaceva molto e l'ho riproposto, e quindi ho dovuto lavorare di nuovo al mixaggio, al mastering, che per avere un suono diciamo decisamente migliore, anche se un po' qui ci sono un po' delle distorsioni perché ho dovuto recuperare dei file che erano vecchiotti di 3-4 anni e non ho avuto accesso a tutti i file, quindi sono stato un po' limitato nel lavorare. Hai dimenticato la chiave segreta. Tra l'altro all'inizio c'era proprio forse qualche campione di... si sentiva proprio uno scroscio, qualcosa. Sì, all'inizio il campione era... Forse proprio da un film di Batman in cui diceva a Nerd sta per diciamo persona che non viene ascoltata, che è rimasta un po' in silenzio, nel dimenticatoio, isolata, e perché diciamo la mia musica è sempre stata molto da solo introspettivo, un approccio molto riflessivo anche. Infatti è un hip hop molto contaminato dal trip hop per certi versi e per certi tipi di sound. Il campione a Nerd che è venuto fuori semplicemente rallentando una canzone famosissima di Adele, che non dice a Nerd, dice tutta diciamo che, cosa, però nel rallentare la voce mi è partita sta idea. Un effetto del genere, sì, sì. Esatto. Interessante. E poi il resto c'è un campione preso da St. Louis Woman, che è un film drama musical degli anni 30-4 forse. Americano, e quindi diciamo c'è un rimando jazz per quel tipo di canzone lì, però è un pezzo totalmente diverso dall'altro perché è molto più oscuro, molto più abstract. Ho capito. È interessante questa, proprio per dare diciamo due estremi della mia musica, perché il pezzo di prima era molto più chill, molto più calmo, questo invece è molto più oscuro. Io avevo non so che di tenebroso. esatto, è abbastanza cupo. Il prossimo brano invece è Think Fluid, spero di averlo pronunciato giusto perché sono abbastanza scarso con le pronunce. Ed è anche con un featuring di Ali G e Spinnix, giusto? Sì. Ok, dai, andiamo ad ascoltarlo che poi dopo ti chiederemo sicuramente qualcosa, anche su come si vengono prodotti i brani, che mi interessa parecchio. Thank you. Eccoti. L'hai ammazzato così. Anche questa mi sembrava un po' scura come... Molto. Questa sì. E anche questa. Infatti poi le prossime mi sa che saranno un po' meno cupe. Ho cercato appunto di dare un tracce un po' più eterogenee del sound. E anche questa che era abbastanza cupa. Beh, per presentare un po' tutto quello che fai. Tra l'altro stavo guardando che questo brano è estratto da un EP che si chiama Mind Rat, con diciamo l'assonanza con Mind the Gap della Metropolitana. Esatto. Quindi più esatto. Diciamo underground di così non si ci muore. Non ci sarei mai arrivato. Mind the Gap, Mind the Gap. Non sei andato a Londra? A Londra c'è la Metropolitana con Mind the Gap. Salta il... come si dice? Stai attento a non cadere. Ah, il gap. Ah, sì, sì, il gradino, ok. Quindi in questo caso invece è Mind the Rap. Ha detto il topo. Ha detto il topo. Salta il topo. Potevo dire. Ti posso dire una cosa? Che sembri molto da andare a suonare al Caffè del Mar di Ibiza. Questa cosa qua, sì, eh? Sì. No, siccome io sono appassionato di musica balearica, è un pezzo che metterei una. Cioè, a Caffè del Mar ci sta benissimo. Non mi è mai capitato di ascoltare questo tipo di... Sì, beh, chill out, queste cose qua, ecco. Ah, ok. Sì, il pezzo è abbastanza introspettivo, parte con queste tastiere, tra l'altro qui ha lavorato ADG, che è uno dei miei migliori amici, è un ragazzo con cui ho prodotto tanta musica, soprattutto per il passato, e che è stato un riferimento e continua a essere un riferimento per me, soprattutto per determinate cose. Ho avuto tanto da imparare da lui. E Spimix è un altro amico mio, un chitarrista, e ha messo su questa chitarra un po' che ricordava come effettistica i pezzi dei Pink Floyd, che anch'essi erano abbastanza oscuri, per certi versi un po' ipnotici o trip. Sì, è vero, da questo punto psichedelici. E quindi sempre per assonanza, perché io poi essendo anche un MC, un rapper, mi piace molto giocare di assonanza. Pink Floyd, ho trasformato il titolo in Pink Fluid, quindi senza ecco. No, vabbè, però in realtà tutto, vedi, mi piace che il suo progetto, rispetto magari ad altri brani che abbiamo ascoltato anche differenti, ha sempre un senso il titolo che dà, che tante volte non è scontata questa cosa, perché abbiamo trovato tante canzoni con un titolo messo così, invece tu ci dai sempre un significato, mi piace questa cosa, sì, qua, no, mi piace molto. Vero, no, ma a volte divento anche un po' troppo pesante, nel senso che per certe cose è pesante, ermetico, quindi... Ermetico però ha comunque, scusami, ermetico però ha comunque un significato, quindi ci sta. Sì, sì, sì. Nel senso è molto personale in questo senso, però ci sta. Va bene, va bene. Vero, vero. Quindi continuiamo con la playlist che ci hai mandato, tra l'altro, perché ma ti tu volevi chiedere come produci. No, ma io guarda, ascolterai il prossimo brano e poi dopo sì, effettivamente mi tengo qualche ancora, tanto abbiamo ancora un po' di brani, mi tengo qualche domanda per dopo, più sulla produzione. Il prossimo brano è Cloud ed Angels. Questo brano, come mi correggeva la Cree, come si chiama? Clouds and Angels. Ok, ok. Sì, sì, sì. Tranquillo, non ti succede niente. Non ti preoccupare. Ti abbiamo sentito arrivare di corsa. No, ho tolto le cuffie perché stavo tirando di là, quindi devo anticipare un po' più. Forse per l'ultimo pezzo riesco a tararmi il tempo. Vabbè, vabbè. Quindi stanno dicendo, questo è un brano che si chiama Clouds and Angels. Effettivamente è molto... qua è abbandonato un po' i suoni... cupi, sembrano più suoni celestiali, sì, sì, sì, anche dal titolo, non poteva non essere altrimenti. E come, e questo brano, tra l'altro, non ho trovato molte informazioni su internet, infatti ti chiedo... No, Ecco. E infatti è un inedito. Infatti oh, grazie! Ecco. Siete stati i primi a pubblicare. Che bello, ma è veramente, anche bello, veramente bello. Molto bello, come bravo. Grazie, grazie. Come dicevi tu, Domenico, sì, Klaus and Angel ricorda un po' questi sound un po' più eterei, lasciami dire, angeli e nuvole. Sì, ho abbandonato un po' un sound troppo cupo, introspettivo, infatti è un pezzo un po' più recente in cui ho cercato di fare qualcosa di psichedelico, ma meno legati a sonorità scure. Sì, quindi è abbastanza d'atmosfera anche questo, e sarà in uscita per Noagis Records in una prossima compilation che dovrebbe essere fuori il mese prossimo. Ok, ok. Quindi... ti volevo chiedere, ma sei innamorato allora? È cambiato lo stile. Sei innamorato? Io sono anche sposato con un qualche figlio, quindi... Ah, bene, allora basta. L'amore ha riempito... No, ma... guarda, non è un'osservazione a caso che hai fatto. Infatti la musica di 5, 6, 8 anni fa, lasciami dire, quando ho cominciato a fare musica, era molto diversa ed era molto più scura, più cupa, anche più di, diciamo, di denuncia, anche per i temi che trattavo. Sì, poi quando comunque l'amore ha cominciato a far parte della tua vita, nel senso che comunque cambiano le visioni e il modo di vivere, questo cambiano le priorità, e stare in famiglia con moglie e figli un po' ti rasserena, sì, ti, ti permette di vedere le cose con un occhio diverso e anche di raggiungere un certo equilibrio, un certo bilanciamento che nella musica poi si riflette nel mio modo di fare musica, quindi non è a caso la tua osservazione. E ti volevo fare un paio di domande ancora. Allora, una più che altro sul mondo delle net label, visto che noi abbiamo fatto un po' questo programma per andare alla scoperta delle net label, volevo chiederti un po' com'era il diciamo, come ti è sembrato l'approccio di non, cioè, tra virgolette, di, non dico regalare musica, ma pubblicare in modo gratuito. Ovviamente adesso mi sembra che anche qualcosa in realtà l'hai messo su un Bandcamp. No, cioè non è tutto, sì, mi sembra, su catalogo gratuito, giusto? No, no, è tutto in free download. È tutto free download. Sì, se trovi qualcosa a pagamento è perché ho esaurito i download gratis e quindi ho avuto un certo numero, poi Bandcamp permette di scaricare solo, diciamo, mediante un pagamento. Però tipicamente è tutto in free download, ma per un semplice motivo. Perché oggi penso che, soprattutto all'inizio, vabbè, io ho fuori 11 album all'attivo. Però 11? Comunque continua. Sì, 11. Però. Sì. Però. Sì, sono, diciamo, dal 2012 che produco per Net Label e, diciamo, con varie collaborazioni. Però il discorso è che c'è talmente tanta buona musica oggi in free download che sì. Avere la pretesa, tra virgolette, di mettere a pagamento qualcosa quando comunque non sei famoso, non hai una certa notorietà, è difficile. Secondo me non, sì, è difficile. Premesso che poi bisogna distinguere tra fare musica per cercare di fare soldi, che è comunque un'opzione rispettabile, cioè, sì, perché se no... meno, ma rispettabile, è chiaro. Però c'è anche il discorso di fare musica per fare musica e per lasciare un messaggio, quindi a prescindere da, diciamo, da questo, diciamo, se vuoi diffondere il tuo messaggio e vuoi farti conoscere, all'inizio non tendenzialmente non metti cosa a pagamento. E poi anche se ti rapporti agli altri, vedi che oggi c'è tantissima musica in free download che è di una qualità pazzesca. Beh, noi ne estraiamo ogni settimana, quindi lo vedo, infatti avete anche ampliato molto i miei orizzonti, nel senso che ho ascoltato degli artisti che mi sono piaciuti un bel po' e che sicuramente possono essere di ispirazione. Poi il fatto che svagate tra generi totalmente diversi e che comunque in parte sono contaminati, perché anche come potete vedere anche dalle mie tracce, ma anche dalle vostre, si sentono magari elementi pop che magari sono contaminati con qualcosa di elettronica o di jazz o di lounge, quindi questo apre molto la mente, perché poi talvolta basta un singolo sound a caratterizzare lo stile di un pezzo. Per chi fa musica, secondo me è un'ottima fonte di ascolto. Poi io credo che oggi, essendo praticamente bombardati da tanta musica, nel senso che se ne trova tantissima ovunque, poi è anche un bene ovviamente, perché molti più artisti rispetto a chi fanno musica, È vero, questo crea forse meno fidelizzazione verso un singolo artista, però permette di ascoltare più artisti e quindi di avere anche più fonti di ispirazione. Ok, ok. Però il discorso che mi dicevi tu delle net label sono comunque un approdo che permette di diffondere la tua musica. Ovviamente se la metti in free download avrai molte più possibilità di certo, che lasciare da solo la cosa. Ma infatti noi non sapevamo che c'era questo limite. No, non sapevamo. Perché il mio collega Domenico dice: ma cavolo, mettono il free download, poi vai su Bandcamp e a pagamento. Dunque c'è un limite. Non sapevo, che... la verità, ignoranza mia. Sì, allora A volte bisogna distinguere tra free download e free donation, nel senso che in alcuni casi ti chiede una donazione, però mettendo zero arrivi comunque in free. Però io ad esempio mi sono accorto che se esaurisco oltre 200 download in un mese e poi dopo la mia roba è a pagamento, infatti mi trovai tutti i miei album, tra l'altro tutti a pagamento, e io dissi: ma io non me ne metto. Ma si riazzera questa cosa o cioè una volta che hai finito i 200 rimarranno a pagamento? Cioè. Sì, è una regola base. Poi penso che un minimo possa essere personalizzata, però altrimenti Bandcamp ti dà la possibilità di comprare dei codici sconto che poi puoi diffondere privatamente, e quindi le persone a cui mandi questi codici possono comunque caricare gratis l'album, però devi comprarli. Ok. Però dovrebbe funzionare così. Ascolta, volevo il prossimo brano, dal titolo credo che sia una produzione tua, però è, cioè non è un prezzo tuo, quindi è un brano che hai prodotto per qualcun altro? Sì, ho fatto il beat, ho curato il beat. Infatti ora gli ultimi due brani ci spostiamo su qualcosa che è di puro hip hop. Sono produzioni mie in cui ho praticamente fatto il beat, ho creato il beat e ho lavorato anche al mixing e al mastering per dei rapper, in questo caso americani, o con Fizia, un rapper tedesco che però canta in americano, in inglese. Sì, è frutto di un album, è preso da un album in cui ho raccolto un po' di collaborazioni con cantanti rapper americani, per la maggior parte americani, e quindi ok. Come è stato estratto da lì, è uno dei miei preferiti. Andiamo ad ascoltarlo, poi dopo ritorniamo subito dopo. In my dreams, I kill right-wing extremists while chase by suicide bombers through fallen buildings, but survive. I'm the luckiest shit magnet alive. Been bullied and barred from all institution devised. A hound of Hades, not an underdog, riding from three miles. See the fury in my eyes as I ride to expose cowards. From the guard to the ghost tower, imbibe the most power from potions brewed by alchemists. The fermentation of molasses, multiply distilled, aged in oak casks. As rums all out, so rogues are plotting. My magnum opus is the doctrine of singular focus, of being on point as a backing. Though it cannot be seen by fans and rappers with negative theoptists. I'm no fucking prophet, but I promise I will prosper. Marry an impossible girl like Clara, and I'm the fucking doctor. Desire to spoken lies will manifest through energy channels from the heart and then through the throat chakra. What? What up, though? Yeah. Concrete Seat, what up? In the mind of our perception, we speak of society's perception. Across the thin line of genius and manic depressive. Been trying to get rich over and over so damn long. Don't know if this is truly genius or insanity pressing. My philosophical niggas say I'm one of the few. If it was one bringing the change, needed it's you. Religious church folks say that it's blessings from Jesus. But Jesus, with last night's sinning, that can't be true. Conspiracies virtually say that I'm selling my soul. They say playing shit backwards, he'd be spitting in demons. Even the crazy think I'm crazy, I guess I'm alone. The only thing that got us back is the skin that he's. Call him a narcissist or just call him an artist. With high attention to detail, low attention to arguing. Rather just do it my way, fuck your opinion, pay. You know you a genius when these niggas calling you crazy. My mind it ricochets, grenades, shooter lungs, that ray Buddha renegade and came to you with blaze through you. I've gone too long on my own, that's why I remain cuckoo. You wouldn't be able to sleep if my thoughts are game to you. I wear on people like erosions. Idiosyncrasies developed from the fact I never felt I was chosen. Spoke to demons as a teen and kept some on the first name. And wouldn't you know, most resented me for letting them get to me. Make of that what you will. I'm a prior volcano spitting liquid methane. In the pressure cook off life, it'll catch flame. No matter the platform, game always respect game. Remain leery, my game theories the checkmates. It's just experience, smile at you while I'm serious. Collect hate by aborting your brainchild before you lactate, bitch. Respond to vibes, ignore drives of sore critics. The vitriol in my writings resembles 14 full Olympic stone. All said and done, my body of work could be Cicero's as a millennial without the arrogance to say that I done did it on my own. E con questo brano cambiamo completamente lo stile, giusto? Yo! Posso dirti, allora ti dico la mia. Allora, il drum sì, effettivamente era un po' diverso, però i suoni sotto qualcosa di tuo c'era, devo dirti la verità, secondo me. Quindi un minimo sì, di coerenza sì, c'è, ci sta. Sì. Poi diciamo che quello che tende ad essere comune, costante, più o meno è lo stile. Cioè, sì. A prescindere dal genere, lo stile di avere il suo sound, diciamo, un po' distorti o sporchi, più che altro sporchi o comunque a volte nostalgici o più o meno melodici, quello caratterizza di base il mio stile, a prescindere dal okay. genere. Ti faccio l'ultima domanda e poi ti volevo lasciare un po' uno spazio per dare i tuoi contatti, i tuoi riferimenti. Allora, ancora non chiedi come produce. Ecco, no, volevo capire un po' com'era il tuo metodo di produzione, è una cosa che mi interessa molto. Sentite il fuori onda, stavamo parlando, non so, penso che hai ascoltato, probabilmente hai ascoltato il brano, quindi non ci hai ascoltato. Però stavamo parlando un po' di produzione. Però l'aveva una domanda che voleva fare già io, quindi mi ricordo e voleva probabilmente. No, sai, io non so usare nulla, il mio amico invece lui è più il produttore, io ascolto e basta, ecco. Però mi affascina anche sapere un po' come si combina. Ma a me non interessa tanto come, cioè nel senso sì. Non mi interessa il programma che uno sì, usa. Sì, no, che è che sono sempre quelli. L'idea, a me piace l'idea che hai tu di campionare, cioè voglio capire, no, tu prendi, che so, partiamo da zero, vuoi fare un pezzo, cosa fai, come ti ispiri, come... Sì. Allora, io tendenzialmente ho collezione vinili, quindi qualsiasi tipo di sound può essere processato e modificato in maniera più o meno forte. Mm-hmm. Ovviamente molto devi lavorare di immaginazione, però di base l'idea te la dà il campione, nel senso che ovviamente se tu cerchi campioni jazz poi non puoi aspettarti di fare musica un rock, diciamo, lasciami dire... post metal, sì, però sì. È chiaro che il campione ti dà una base di partenza. Io a volte non ho idea di dove voglio arrivare, però il campione, quando mi piace, ed è un approccio piuttosto intuitivo, okay, okay. Al momento lo uso e poi fai vari tagli, sporcature, filtri, giochi col pitch, con le frequenze, e congeli una certa, diciamo, melodia. Sì, poi mi piace l'idea, mi piace. Gli adatti una metrica e ovviamente poi più roba metti su, più sei vincolato, nel senso che all'inizio è carta bianca, quindi qualsiasi cosa trovi che ti possa interessare la campioni. Poi man mano che devi aggiungere altra roba, ovviamente sei vincolato alla tonalità e alla metrica che hai impostato, no? Bello, mi hai dato un po' di idee. È anche importante, è una cosa importante che ho capito nel tempo, sì. È quanta roba mettere su, perché tendenzialmente quando lavoravo agli strumentali cercavo di combinare molti sound in modo tale da non rendere l'ascolto noioso, rendere un qualcosa di più, diciamo, trip, quindi qualcosa che potesse partire in un modo e finire in un altro, quindi dei sound che potessero evolvere e cambiare abbastanza nel tempo. E, invece è diverso l'approccio, come in questo caso, quando devo produrre per qualche rapper, nel senso che in quel caso, dovendo lasciare spazio alla voce, ma questo tipicamente è qualcosa che penso che avviene anche in altri generi, la differenza tra una strumentale e una produzione cantata è che dovendo lasciare spazio alla voce non tendo a riempire il beat di troppi sound e quindi in questo caso lasci più spazio a chi deve interpretare il pezzo, tant'è che l'hip hop tipicamente è un po' più scarno di sound rispetto a composizioni. Sì, è un campionamento e via. Sì. Ascolta, ti volevo lasciare un attimo uno spazio per dare un po' i tuoi contatti, dove possiamo trovare informazioni su di te. Ma una cosa non ti abbiamo chiesto: fai serate o fai solo produzioni? Sono produzioni, okay. In studio anche per altri, nel senso che a volte lavoro anche mixing e marketing di altri quando riesco ad avere il tempo di prendere certi lavori, ma avendo poco tempo tendo a concentrarmi sulla mia musica, anche perché lo faccio estremamente per passione, quindi è qualcosa che faccio con piacere e con passione, quindi cerco di fare la mia musica, di concentrarmi sulle mie produzioni che sono prettamente in studio, avendo l'approccio di fonico e avendo lavorato spesso in studio, non faccio serate live, quindi ok, ci sta, ci sta, è una scelta, è una scelta, una scelta giusta, tra l'altro. Sì. Sta in famiglia lui, c'ha i figli. Beh, comunque, dove ti possiamo ascoltare? Notte, quindi? Tra l'altro, quindi quando trovo modo di lavorare di notte, tipicamente. Ti dicevo, dove ti possiamo ascoltare in giro per l'internet? Allora, io su Bandcamp è il mio riferimento principale, perché lì trovi tutta la mia discografia e i miei 11 album, con poi ovviamente tanto di riferimento di ciascuna net label che ha pubblicato gli album. Nel senso che io sulla mia pagina ho tutti gli album, poi alcuni di questi album sono pubblicati per alcune etichette, alcuni per altri. E poi ho il SoundCloud, dove ogni tanto metto dei pezzi spot, e anche la mia pagina Facebook, quindi io non so se avrete modo poi di condividere i link che ti ho girato. Sì, però sì, metteremo sicuramente metteremo il podcast con diciamo i vari brani che hai messo e i link poi dopo per ascoltare / scaricare i pezzi, visto che comunque sono in download gratuito. Sì, da Bandcamp c'è tutta la discografia in free download, quindi è quello che consiglio, una vetrina un po' più compatta e... Ok, va bene. E niente, noi ti salutiamo, lasciamo andare l'ultimo brano che ci hai inviato, che è Sbronzo Zapping, che quindi immagino che sia qualcosa di completamente diverso da quello che abbiamo ascoltato, giusto? Io voglio avere qualche informazione su questo brano, mi sembra giusto. No, sì, allora, questo è un brano in cui ho cantato io, quindi perché ogni tanto ritaglio qualche produzione mia cantata, perché tanto anche rappo, quindi lo stile del beat sarà abbastanza sporco, questo è un beat dello sporco, e ho cantato io, quindi la differenza con quello di prima è che cambia il cantante. Bronzo Zapping è nato da un'idea in cui ero un po' sbronzo a casa di notte, giravo per la TV cercando un po' di idee, e in realtà poi mi sono accorto che girano tante notizie vuote in TV, e un po' stanco ho provato poi a buttare giusto pezzo che un po' riflette molti aspetti però della società. Wow, interessante, interessantissimo. Le cose migliori sono quando si beve. Di notte. quando si beve. Di notte. Ma hai cantato anche da sbronzo? Un po' sì. Ah, okay. Fantastico, io voglio sentirlo. Certo, lo andiamo subito ad ascoltare. Infatti ti dico che il pezzo era talmente lento che poi non mi è piaciuto, l'ho dovuto velocizzare. Va bene, noi ti salutiamo e ti ringraziamo di essere stato con noi, poi dopo ci sentiamo sui vari social per podcast e altre robe. E quando avrai qualche produzione nuova, tanto immagino che tu produci spesso, magari ci risentiamo, proponiamo qualche altro ma brano. Ma si può sapere il vero nome? Ah, giusto, è vero. Il vero nome qual è, scusami? Orlando. Okay. Ciao Orlando. Allora ci sentiamo presto, ciao, Orlando. Ciao. Ciao, ciao, ciao, grazie. Grazie mille a tutti. Ciao. Nulla senza, tu non lavori, non. Invece quelli di Save the Children, pensate cosa devono avere visto, cosa hanno vissuto. I particolari da Pierluca Terzulli. Se ne discute da inizio. Sì. Perché se le dice, se sua madre le dice, va no, bene. Ma mia madre non è che non si fida di me. Dolori mestruali? Buscofen in capsule. Repliche il giorno dopo le 10:50 e cotto. Può mandare anche voi. Vago sul divano, c'ho il magone, a maggior ragione vago in un vagone, alla stazione giù per il viaggione di fine stagione. Rappo stanco e manco stacco, ancora spacco, scatto e scappo e ti do scacco matto. No che toste broccherò, te scoccherò, se il gusto di percosse sulla botte. Tipo abitabile, tipo evitabile, vivo una favola, favela s'abitabile. Colpito fragile, compito facile, compilo pagine, comprimo grafiche, concimo canape, concime magiche, coltivo tante piante che mi cibo everyday. Vegano. Mass media e cliniche, le masse critiche sono il malessere del nostro vivere. Striscio tra le vivere e dentro in trance, altro che tanto che mi prendi per l'intraprendente Andrea Di Pre. Senza tre non c'è due, paghi tre ma prendi due fregature. Gioventù del rap si atteggia pure, faccia pure, falciature. Butto giù le facce dure, bocciature. Non accetto scene mute, scelte assurde al sud, mare di morti. Troppi intoppi per nave 18, troppi corpi sui barconi ai porti. Importi illeciti nei centri in deficit, i crediti col 13, tu credici. Bella frode, brother, l'Italia beve Coca-Cola e balla mentre crolla il ponte sulla scuola fatta con la colla. Mani impasti, pasta frolla. Incastro rime come Lego, non è un gioco anche se vendo zero. Tu invece incassi record, le folle pagano e si ammassano. I folli pregano e ti ammazzano. L'ansia sale se una testa calda salta. Tensione alta quando senti alla acqua. Contro senza compromessi, come ti comporteresti? O versi controversi o pezzi compromessi che non compreresti. Sbaglio strade, non ci sono bivi. Paradossale come un prete che molesta i figli. Disfiducia è una persona che o dice falsità o se ci crede, come dire, è un poco... Wall Street, un viaggio alla ricerca della musica del futuro. Ebbene sì, non avete sbagliato programma. No, no, non siamo in un programma di musica anni 80-90. Ah, diciamo che dopo aver ascoltato la musica bellissima di Secret, adesso ho imparato come si dice, non lo sbaglio più, e abbiamo ascoltato questo brano un po' particolare. Sì. Loro sono gli Shampoo Tears, che vuol dire lacrime da shampoo. Sì, che brucia, brucia quando uno... E effettivamente loro sono un brano... sono un gruppo indie pop inglese, quindi, che quindi si rifà downtown Orlando, quindi Florida. Ah, Florida, in Florida. Florida. Florida. E loro si rifanno molto effettivamente alla new wave pop song degli anni 80. Sì, beh, tutto parte comunque dai Beatles, eh. Cioè, sì, sì, sembravano un po' i Beatles, un po' più... I primi... Gli Happy Mondays, tutti quei gruppi un po' anni 90. Vabbè, comunque, l'avevo detto che questa sera era una playlist un po' diversa dal ma solito. Ma che pronuncerà qualcosa? Che pronuncerà la tua fantasmagorica. Ah, no, No, pronuncerà la tua fantasmagorica canzone rubrica. La rubrica, rubrica, okay. Rubrica. Che io direi quasi quasi, intanto sì. Che stiamo chiacerando, perché sì, intanto sì, io sì, vedi sì, che sì, sono sì. Effettivamente sono multitasking, che faccio una cosa, ne faccio una. Direi che lanciamo la sigla e poi dopo andiamo a introdurre anche il brano quasi quasi. Che dici? Va bene, va bene, va bene. It's nice. A me la sigla piace molto. Tra l'altro è un brano sì. Che avevamo anche passato spesso. Sì, sì, anche mi noi. Sono innamorato subito di questa base. Bene, stasera cosa ci proponi? Allora, come tu peschi da tanto dalla Russia, anche io ho pescato da un'etichetta che si chiama Control. È un'etichetta, forse la più grande, dicono, etichetta trip hop russa, dunque ci colleghiamo sempre nel Telebo, sicuro. Sì, sì. E ho scelto questo pezzo così, che già il nome è un po' particolare. L'artista si chiama Plushka. Plushka, sì, sì, sarà così. Il titolo, che è anche bello, Close Your Eyes and Dream. Beh. Cioè, come prima hai visto, chiudi gli occhi perché ti bruciano per lo shampoo. Giustamente, adesso li chiudi invece per dormire. E sogna. Va bene, dai, andiamo a ascoltarcelo e boh. Buonanotte a tutti. Yeah. Bene, siete ritornate. Siamo ritornate dalla nostra pausa. Ecco, questo è un pezzo che avevo scelto io. Sì, un po' rilassante. Sì, è molto rilassante. Infatti sulle ultime note stavo... Però non so se è più la fame o il sonno. Cioè proprio c'è un miscuglio di cose che... Ma tu hai più fame o più sonno, Tony? Io ho già mangiato qualcosina, però... E neanche sonno, perché ho dormito abbastanza. Ma la canzone era Close Your Eyes and Dream, sì. Quindi chiudi gli occhi e sogna di mangiare. Uniamo le due cose. Insomma, solo che tu non sogni solamente. Ciao Fabio. Così. Ciao, ciao Fabio. Abbiamo Fabio. A proposito di dormire. Allora... Vieni dall'oltretomba, Fabio. No, sono malato. Hai visto, ti abbiamo raggiunto lo stesso però, dai. Ma perché? Sono in onda? Certo. Sei in onda, sei in onda. Ecco. Che figura di M. No, perché? Però dovete avvisarmi di no, questo. No, no, no, era quello, l'intento era proprio quello, questo qua. Fabio, è il bello della diretta. Ah, ok. Che fai di bello? Cioè, sul divano sono raffreddato, la tuba è un po' scesa. No, hai fatto bene a stare a casa perché noi i tuoi germi non li vogliamo comunque. Grazie. Quindi secondo me hai fatto... Come no? Li ho impacchettati tutti per lunedì mattina. Perfetto, perfetto, lasciali lì impacchettati. Ma domenica ha detto che non va a lavoro lunedì. Da buon statale. Mi sembra giusto. Come è andata la puntata stasera? Sì, bene, dai. È andata bene. Infatti, visto che non ci sei tu, è andata meglio. No, no scherzo. Ma scusate, sono arrivate ragazze nuove per me? No. Fabio, non ti basto io e la Debora. No, stasera, effettivamente, che non ci sei, ci sono delle ragazze nuove. Tipo Ermenegilda e Ginepra. Ginepra. Dove lasci il mio numero? Va bene, sì. Va bene. Anche Yolanda mi ricordo, no? Così. Jennifer c'è. C'è anche Jenny no, P. Fermate, che se lo facciamo ridere ci rimane qua. E no, guardami. Ricordatemi che Felice la Radio Universale, ci manco, eh. No, ok, va bene, va bene. Guarda, quindi verrà lui al tuo posto in radio, giusto? Certo, state sperando che io lo schiaffo subito. No, ma figurati. No. Guarda la voce di Tony. No, magari... Lo vedo già. No, no, almeno se lo dici ti presento qualche mia amica. Ecco, no, per un'estrema unzione. Infatti. Pensavo che avevi la bambola voodoo con il mio volto. No, per carità. No. Oh, comunque riesci a far clippare l'audio anche dal telefono. No. Ma perché sai che c'è la voce potente? Sì, infatti. Va bene, va bene. Si dai. Il mio naso tappato. Sì, dai. Sì, che sì. Si sente. Vabbè, dai. Ascolta, ripigliati e niente, ci vediamo settimana prossima. Va bene. Non pensavo che le riunioni della radio fanno così male. Sì, infatti. E tu eri anche la prima. Non vengo più. Non venire mai più, mi raccomando. Ciao Fabio. Ciao Fabio! Ciao. Riprenditi! sì, comunque, ok, non finiamo prima, però, cioè, tutto sommato, va bene, dai, cioè, vabbè, ok. Qua ci sono bene una fuori onda. Mi ricorda qualcuno che non c'è stasera. Non Fabio, ma l'altro Fabio. Ecco. E che c'ho freddo, devo dire la verità. Non è... Il tuo metodo non funzionava, la tua soluzione. Perché se funziona poi... E se funziona troppo, succede qualcos'altro. Si poteva dire pirla. Sì. Siamo in Lombardia, non è che... Cioè, voglio dire, abbiamo detto molto di peggio. Salutiamo ci siamo anche, scandalizzati. Anche chi, tutti pirla. Chi ci trasmette. Ah, ok, no, scusate. Beh, allora, sicuramente dobbiamo salutare, diciamo... A Radio Lupo, cioè va bene, non la salutiamo mai, che cazzo. Ciao Radio Lupo. Ciao. Poi salutiamo. Sembra un addio, cioè. Ciao. E poi salutiamo Radio Stella e Radio Vanessa. Ok. Ok, che ci hanno trasmesso in questi giorni. Tutti i nostri amici dei podcast. Sì. Aspetta sì, che sì. Guarda la rubrica. No, tra l'altro adesso sul sito ho fatto un aggiornamento e quindi sulla barra destra si vedono un po' tutti i nostri partner, le nostre partnership, le nostre collaborazioni. Vibe. Bene. Bene, questo era un pezzo trap, mancava però la voce. Infatti, mi fa proprio trappare. No, ma a me non dispiaceva. Tra l'altro, la copertina che non si vede era bellissima perché era fatta con gli omini di Super Mario Kart. Quindi, probabilmente quel pezzo lì, a parte il pezzo, l'avevo scelto forse per la copertina. Devo dire la verità. E ricordo che qua il nostro Domenico c'ha un portachiavi a forma di Lego, di omino della Lego. E oh, senti. No, molto bello. Infatti, te lo volevo rubare. Tra l'altro, è stato anche un regalo. Quindi. Quindi... Ma è carino. No, è carino. E oh, è così, noi siamo un pochettino nel fondo, un pochettino nerd, quindi andiamo avanti così. Ricordiamo no, il programma del nostro amico Nerd Corner. Sì, che, giusto. Che è il mercoledì, quando se riesce a trasmettere. No, dai, speriamo che riparta sto diamine di Daniele, devi Daniele, ripartire questo programma. Devi stare insomma. Bene, che tra l'altro è stato anche dei nostri, ricordiamolo, all'inizio di questa stagione di Wolf Trips. C'è sto ragazzo che sta facendo tutto quello che non si dovrebbe fare. Certo. Rumore. No, in realtà stavo per annunciare il prossimo brano, solo che non riuscivo a farlo. E il prossimo brano si chiama, è di Sam Gellaitri e si chiama Temple ed è del Soul Action come etichetta, net label etichetta che dir si voglia. Quindi direi che ce lo andiamo ad ascoltare. Non è Sam che c'era prima di noi, dopo di noi, no? No, non so chi sia sto Sam Gellaitri, però vabbè, dai, magari mo vediamo se troviamo qualche informazione almeno da dove viene, da dove proviene, chi è, cosa fa, perché andiamo ad ascoltarcelo. Thank you. Allora, ho trovato due informazioni, poi dopo ti lascio la parola, su questo Sam Gelaitri. Allora, non ho trovato di dov'è, però è un ragazzetto del 97, attenzione, 22enne. E la cosa che stupisce è che ha prodotto con la Soul Action. È un ragazzetto, è un ragazzetto. Mi sembra un po' Ramazzotti, come... ha prodotto con la Soul Action come net label, e poi dopo è passato la XL Recordings, che è una major che dei prodigi, sì. Non è che dici ha avuto mezzi termini, no, veramente. E quindi vabbè, probabilmente è come diceva. Ora, oggi mi è piaciuta proprio l'intervista, perché mi ha dato un po' di spunti sulla produzione, prima di tutto dare un senso alle canzoni, che effettivamente, anche se sono canzoni tra virgolette, non sono dei brani pop, sono musica, diciamo, abstract, robe strane. Comunque lui gli dà un senso. Sì, vabbè, ma questo si dovrebbe sempre fare. Ma credo. Non è detto, nella musica elettronica non è una cosa scontata. Comunque qualche emozione la metti sempre dentro nella musica. Non cioè, è scontato. La musica non è scontato. Se lo fai così emozioni. Per fare, no. Guarda che ti posso fare l'esempio di non so quanti milioni di canzoni che passano in radio che non hanno un senso, sono semplicemente delle robe messe lì. Sì, ma anche famose. Anche famose. Io dico, soprattutto famose. Faccio un esempio. Famose. Una canzone si chiama Kiss the Rain, no? Famosa, gli anni 90. Mm. E il titolo, lei è una cantante, se non mi ricordo, il titolo così, l'ha buttata così, una frase alla cavolo. Kiss the Rain, perché suonava bene. Cioè, e quindi... non bacia la pioggia per un motivo poetico, no, Kiss the Rain. Vabbè. Anche un'altra canzone che se non mi ricordo. Dunque, non è che hanno sempre un senso. Ma cioè, la canzone in sé. Sì, beh, ma anche il titolo ha un senso. Ma non è anche no. Cioè... Beh, ma secondo me, anche se non ha senso la canzone, qualche cosa ti trasmette sempre. Anche non avere senso dipende, te lo trasmette. Dalla persona. Può essere, dice, può essere merda, può essere non amore. Mi piace, è sempre una cosa che vabbè, ti trasmette. Certo. Anche se non ti piace, è sempre un'emozione vabbè. Che provi. Cioè il. Va bene, ci sta. Effettivamente il brano di prima non è che avesse poi tutto questo senso, però perché era un brano che partiva in un modo, poi c'era dentro un po' di roba house, poi ritornava in un altro modo. Bisognerebbe magari parlarne col produttore per capire un po' se può avere un senso. Piacciono queste cose. Sì, cioè, sì, però non è che ha poi questo grande senso adesso. Sì, adesso. È un collage. Vabbè, ma magari si può vedere come era tranquillo fino a un tot, poi si è scatenato l'inferno per poi tornare alla normalità. Per questo che l'hanno chiamato i prodigi, allora tu dici. Sì, in effetti. Però il brano si chiamava Temple, per dirti, cioè Tempio. Che c'ha zecca. Vabbè. No. infatti apprezzo molto in realtà invece l'ospite che è venuto stasera, proprio per questa caratteristica qui, che invece gli dà comunque un senso al titolo, un senso al brano, una logica. E ha lanciato poi i suoi brani anche in modo gratuito sulle net label. Quindi può essere veramente un veicolo per farsi conoscere, come in questo caso qua. Da una net label è passata a una major addirittura. Adesso c'è i soldi che gli escono fuori dalle tasche. Se in quell'etichetta lì, sì. Bene, andiamo a ascoltare il prossimo brano, che viene dall'etichetta Myrdal, che abbiamo ascoltato già settimana scorsa. Che salutiamo, che sono molto presenti. Presentissimi. No, sono dal Messico, giusto? Sì. Hola, chico! E questo brano mi piace molto. Va bene, ascoltiamo. Didn't ever ci siamo ragazzi. Com'è il titolo? Orange Skin. Sì, ma non mi devi spaccare l'orecchio. Ed è di chi è che? Agatha Thirsty. Da non confondere con Agatha Christie. Cioè, sembra un po' l'asonanza, no, questa qua? Sì, l'avevi già detto anche l'altra asonanza. E come si dice? Asonanza. Asonanza. Va bene, va bene, va bene. Dai, direi che ormai siamo alle battute finali. Giusto? Siamo ormai al sul... Ma che rimani bloccato, te stai buono. La vecchiaia è una brutta roba, una brutta avanza, roba. Avanza, sta parlando avanza. Per lei, non per me. Sinceramente mi sono... Stavo muovendo da grande campione di tennis. Arriva, oh, abbiamo qua Natale, anche ce lo siamo, ce ne siamo. Sì, Natale, cioè, sì, infatti Natale è già passato. Vabbè, direi che ormai siamo, ormai mancano pochi, neanche 10 minuti, ormai siamo nel delirio più totale. Come sempre. No, niente, la settimana direi che ormai è conclusa. Mi sta avendo rapporti con un mixer comunque. E io domani sera lavoro, ve lo ricordo, sì. Non suono purtroppo. O meglio, magari suono altri strumenti, però non, diciamo, non in un locale. Noi non sapremo dove andremo, ma magari. Chi lo potrà mai dire? Però sicuramente ci sentiremo poi settimana prossima. Non è che stiamo chiudendo vabbè, il programma. Ma domani, sembra... Ah, nel senso. No. No, in realtà volevo. In realtà il discorso aveva un senso, perché volevo dire: poi da lunedì saranno presenti tutti i vari podcast che potete ascoltare. Volevo fare un po' di marchette. Che potete ascoltare su iTunes, Spotify, Mixcloud e N altri mila canali. E poi, ovviamente, abbiamo i nostri social come Facebook e Instagram, che vengono seguiti da Katia. Io ti volevo fare una domanda. Ecco, tu che lavori nelle ferrovie, non potresti proporre il programma come sottofondo musicale? Ma non ho questo livello di potenza all'interno della mia azienda. Bene, andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è di Chielo Bot, ed è un brano strano, particolare, non vi annuncio nulla. Si chiama Tanzen. Schönes Mädchen, lass mich nie wieder. Komm schon, schönes Mädchen, komm doch mal her. Schönes Mädchen, lass mich nie mehr alleine tanzen. Seine Schüchtern, beweg die Hüfte, beweg den Arsch, da geht noch was. Seine Schüchtern, beweg die Hüfte, beweg den Arsch, da geht noch was. Komm, lass uns tanzen, tanzen, tanzen. Schönes Mädchen, komm doch mal her. Schönes Mädchen. Va bene, sembrava di essere in un film anni 70. Ti ho rubato, sì, la battuta. Sì, sì. Che poi se guardiamo lì, la copertina, mi sembra che una strada, no? Sì, è preso da una macchina che sta andando su una strada. Tra l'altro loro abbiamo visto che sono tedeschi. Tedeschi. E un po' si sente nella pronuncia, dai. Ma sì, forse anche cantano in tedesco? No? Penso. Non lo so. Non riesco a riconoscere. Sono tedesco, quindi. Dice Tanzan. Che tra l'altro Tanzan mi ricorda qualcos'altro, prova. Sì, lasciamo stare. Anche me, però. Sì, la giovinezza. No, in realtà come dice la canzone Tanz, perché non dice Tanzan alla fine, no? Danz. Tanz. Quindi danza, no? Sì, sì. Come si dice ballare in tedesco? Prova a cercare. Debora. No, no, ma lei ha studiato. Bisogna cercare. Lei ha studiato. Lei ha studiato. Ho studiato 20 anni fa. Cioè, Beh, non è che non si balla più in caso. Vabbè, cercalo. Comunque. Vabbè, intanto che cerca, io direi che stasera abbiamo veramente toccato vette strane della musica. Sì. Proposta della Net Label. Diciamo che settimana prossima ci sarà qualche cambiamento. Sì, sì, vediamo. Della... Vediamo durante la settimana, ce la studiamo bene. Sì, okay. Cambieremo un po' sulla playlist, però in realtà resteremo, sì, sempre nell'ambito delle Net Label e quant'altro. Quindi vediamo. Vuol dire danza. Ecco. Danz. Quindi vuol danz, non danzen. È danz, è danzen. Danzen, però. Danzen. C'è una canzone famosa, Danzen Bambolino. No, ce n'è un'altra. C'è un'altra ancora più famosa in realtà. È molto più tamarra. Sì? Sì. Gigi D'Agostino. Già. Adesso non ce l'ho presente chi è Gigi D'Agostino, però. Ma comunque vi devo dire una cosa, perché adesso faccio un paio di excursus veloce, faccio la base e poi dopo partiamo subito con l'ultimo brano. E no, una faccio la base. Vai, dimmi. Questa base che c'è sotto, sì, mi ricorda sempre il Pulcino Pio. Sì, è il Pulcino Pio in effetti. Infatti è proprio, si chiama base Pulcino Pio. E niente, andiamo a ascoltare il brano, la minchiata la dirò dopo, dai. Dopo la sigla, andiamo a sentirlo. check this out. Wall Street. I viaggi del lupo. E anche per stasera il viaggio si Wall Street. Triste. Secondo me se rifaccio la voce non mi esce più uguale. No, è uscita troppo figa, così basta. Vero. Comunque vabbè, abbiamo sforato di qualche minuto. Stasera abbiamo fatto una playlist tutta strana. Abbiamo chiuso con questa musica un po' sul rock particolare. Dimmi, cosa? No, pensavo volessi dire qualcosa. Abbiamo sforato di qualche minuto, però tanto il programma dopo di noi non c'è, quindi... Sì, ma intanto te poi in post produzione Italia. Ma sì. Sì, va bene. Ringraziamo Secret che... Secret. No, sto scherzando, Secret. Che c'è stato anche simpatico. Sì. Era molto simpatico. Mi è piaciuta. No, ma devo dire onestamente che li conosciamo. Sono tutti simpatici quelli intervistati. Sì, sono d'accordo. Sono veramente delle persone simpatiche e disponibili. Sì, no, sono proprio d'accordo. E poi, cosa c'è? Io non so perché cosa... Perché mi prendete per il culo? Questo si può dire o... Devo tagliare anche questo. Tagli anche questo. È che proprio sono d'accordo. E niente, vabbè, comunque... Direi che facciamo i saluti. Sì. Allora, salutiamo quelli che ci hanno ascoltato, quelli che ci conoscono, quelli che non ci conoscono e ci conosceranno. Anche, e anche quelli che non ci ascoltano. Quelli che non ci ascoltano sicuramente. I primis, soprattutto loro. Sì. E niente, salutiamo, vabbè, Secret... Salutiamo. Io direi che ci salutiamo noi, perché stasera poi non c'è scritto nessuno, non c'è caccato nessuno, sì. Non c'era la diretta. È stata una puntata tranquilla. È vero, non c'era neanche la diretta. Ma comunque a me mi fa piacere perché è molto più radiofonica, secondo me. Ah beh. Cioè, perché la diretta Facebook a me mi rompe sempre le balle, sinceramente parlando. Vabbè. Comunque, se volete poi riascoltare la puntata, ci potete riascoltare sul podcast da lunedì, a partire da lunedì. Che troverete i link sulle pagine di Wolf Trips. E tra l'altro poi ci saranno anche vari podcast, magari con l'intervista e altre cose. E io vi saluto. Salutiamo la Cri, la Debora e Tony. E niente, ci sentiamo settimana prossima. Vai pure. Ciao. Ciao.